scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, ecco l'appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di uno dei più grandi attori di Hollywood. Nato a Filadelfia nel 1949, inizia la carriera di attore nel 1973 quando viene scritturato per la rappresentazione teatrale di Grease. Nel 1975 esordisce sul grande schermo con il film Rapporto al capo della polizia. Dopo le prime pellicole raggiunge la popolarità internazionale nel 1980 grazie ad American Gigolo, consacrandosi come il nuovo sex symbol del cinema americano degli anni 80. Ha recitato in tanti film di successo, tra cui Ufficiale Gentiluomo, Pretty Woman, Schegge di paura, La frode, Chicago, grazie al quale ha vinto un Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale e uno Screen Actors Guild Award come parte del miglior cast. Negli ultimi anni è cresciuto il suo interesse per il cinema indipendente. Nell'ultimo film, Time Out of Mind, recita nel ruolo di un vagabondo. Ospite del Taormina Film Fest, dove ha ricevuto il Taormina Arte Award, ci ha parlato di questo ruolo di invisibile. Lui è Richard Gere. Well, you know, I use invisible because it's the easiest thing to say, but it's actually different. It's actually a black hole. Uso la parola invisibile perché è la più facile da usare, ma in realtà la situazione assomiglia più a un buco nero. Non è che la gente non ti veda. Le persone vogliono di proposito stare lontane da te. Ti vedono, ma non nel profondo. Quello che vedono è la loro paura. La paura di essere risucchiati nel fallimento, nella miseria, in un incubo buio e profondo. Ma è solo una proiezione della loro mente. La mia esperienza personale come uomo, come persona, è stata profonda per me tanto quanto lo è stata per il mio personaggio. In situazioni come queste le persone sono tutte attorno a me, vogliono sentire quello che dico, fotografarmi. Girando quel film ero la stessa persona, ma indossavo un travestimento. I miei capelli erano diversi. Stavo lì in un angolo e nessuno voleva avvicinarsi a me. I'm the same person. I had a costume on. Sono sempre la stessa persona. È così che va il mondo. Le persone tendono a curarsi solo della superficie delle cose, ma la superficie delle cose è totalmente inaffidabile. Prendiamo la superficie delle cose come se fosse la verità e dobbiamo smetterla. Nell'ultimo film suo che abbiamo visto in Italia, invece, Ritorno al Marigold Hotel, si parlava di età che avanza. Ma per lei con il tempo si diventa più liberi? Well, I think just with experience. I don't know if it's time, but experience. Forse con l'esperienza. Non so se con il tempo, ma con l'esperienza sì. Posso immaginare che esistano persone con qualche annetto, insomma, della mia età, che non hanno fatto nessuna esperienza, che non hanno imparato niente. Of course, the learning process of gaining. Credo che il nostro dovere sia quello di imparare da tutto. Certo, il processo di apprendimento, di acquisizione della saggezza in modo onesto e profondo dovrebbe renderci più grandi. L'universo si apre, la nostra capacità di amare più grande, la nostra capacità di perdonare più grande. Tutte le buone qualità dovrebbero diventare più grandi. Quando ci ammorbidiamo nella nostra determinazione di curarci solo di noi stessi, di proteggere noi stessi a tutti i costi, l'universo si apre. E molti di noi, quando invecchiamo, credo di essere la persona più vecchia in questa stanza. Most all of us who get older, I guess I'm the oldest person in the room here. I think I am. No, Claudio actually is older than me. Ah no, Claudio è più vecchio di me. Nothing. Beh, credo che il processo sia quello di avere sempre meno paura. But the process is becoming less afraid, I think, for most of us. You're laughing at me, dick brain. No, sir. You better stop eyeballing me, boy. I'll rip your eyeballs out the sockets and skull fuck you to death. Yes, sir. What's your name, boy? Mayo. Zach Mayo, sir. How did you slip into this program? I didn't know the Navy was so hard up. You got an injury there, Mayo? Not exactly, sir. Hey, this is really wonderful work. Where'd you get this, Mayo? Subic Base, Philippines, sir. Ah, sort of recognize the work. Be proud of them wings. They're the only ones you're gonna leave here with. Mayonnaise. Lei spesso parla di ingiustizie, di problemi a livello globale. A proposito della questione dei migranti, ha detto: il problema va affrontato dal punto di vista morale e chi possiede di più deve essere pronto. My son asked me the other day, says, you a Marxist? And I thought about it and I said, well, I'm probably more of a socialist. He said, what's the difference? And I said, well, I think socialism is without the bad guys at the top. Mio figlio l'altro giorno mi ha chiesto, sei marxista? Io ci ho pensato un po' e gli ho risposto, ma forse più socialista. E lui, qual è la differenza? Il socialismo è quello senza la gente cattiva che comanda. Dobbiamo creare delle società senza i cattivi al potere. Ce ne rendiamo conto che in questa storia ci siamo coinvolti tutti e tutti insieme. Non è un cliché, ma è la pura verità. Anche guardandola da un punto di vista semplicemente egoista. Se vogliamo sicurezza, dobbiamo creare un mondo in cui tutti abbiano il minimo indispensabile in termini di cibo, casa, opportunità, sanità, tutte queste cose. Il 99% dei problemi scomparirebbe subito. Negli ultimi due anni ha girato 6 film, un momento molto prolifico nella sua carriera. I was surprised. I mean that there were 6. I'm trusting you. Sono sorpreso, ma se hai controllato tu, mi fido. Evidentemente c'erano 6 film che volevo fare. Non avrei mai detto che invecchiando avrei trovato tanti film da voler girare. E proprio oggi stavo parlando di quanto è cambiata l'industria cinematografica negli ultimi 30, 40 anni, ma soprattutto negli ultimi 10. If one wants to make interesting smaller movies, it's the independent world, it's independent financing, it's independent. Se qualcuno vuole fare film piccoli ma interessanti, c'è il mondo del cinema indipendente. Credo che la maggior parte dei film che ho fatto nella mia vita siano in realtà film a basso budget. Non sono mai stato particolarmente interessato ai blockbuster. Adesso il finanziamento è più difficile, più complesso. Non ci sono molti giorni a disposizione per girare, ma non mi importa. Quando abbiamo fatto Arbitrage, abbiamo avuto a disposizione forse 30, 31 giorni. Non mi era mai capitato prima. Avevamo avuto 48 giorni, 60 giorni per le riprese. Mi sono accorto però che in fondo mi piace questa rapidità. Devi avere un direttore della fotografia che sappia trovare le luci giuste in fretta con la qualità che vuoi. Tutti devono essere prontissimi. Persino i trasportatori, i camion devono essere veloci. Bisogna spostarsi rapidamente di location in location. E questa energia cinetica ha un effetto molto positivo su questo tipo di film. Che cosa ama ancora nel girare film? Look, it's a group project. No one person makes a movie. The director gets credit usually, but there's a lot of people make a movie. È un lavoro di gruppo. Di solito il merito se lo prende il regista, ma a fare un film è un sacco di gente e c'è un sacco di gente che può fare errori e mandare in malora un film. Chiunque può combinare un pasticcio. È proprio uno sforzo di gruppo e non tutti guadagnano un sacco di soldi, soprattutto appunto nei film indipendenti. Especially under the circumstances we're talking before, where people are not going to be making a lot of money, in terms of including the actors. Ci sono anche persone ai gradini più bassi, anche tra gli attori. Devono lavorare tutti velocemente per tante ore con un sacco di preparazione. È un'esperienza viva e vivace per tutti che ci riporta i primi anni di carriera, quando nessuno di noi aveva preso qualche cattiva abitudine e dovevamo essere aperti, creativi, inventivi e subito alla svelta. But we have to just get on with it and being creative and open and inventive right now. In Frenny, che lei ha presentato da poco al Tribeca, è diretto da un esordiente, Andrew Renzi. Come ha deciso di dire sì a un'opera prima? Well, it starts with a script. I mean, I'm very leery of a first-time director. Parte tutto con una sceneggiatura. Sono sempre guardingo quando si tratta di registi esordienti. È un lavoro molto duro. Pensano tutti di poter dirigere un film, ma non è così facile. A tanti livelli. E non è solo dove metti la cinepresa. Ci sono tanti elementi da tenere presente quando dirigi un film. If there is a terrific script and a terrific part, that's a beginning point. Then meeting the writer-director. Parte tutto da una grande sceneggiatura con un bel ruolo, ma per me è un bel punto di partenza. In questo caso, Andrew aveva fatto un paio di bei corti, ben fatti. Aveva dimostrato di saper piazzare la cinepresa, di avere senso dello stile, un senso visivo che non fosse televisivo. Tutto ottimo, ma non sufficiente. Abbiamo passato molto tempo a parlare della sceneggiatura, ripensandola, riscrivendola, parlando del casting. Rethinking the script, rewriting the script. In questo processo o si inizia a costruire la fiducia o la si distrugge subito. Se si distrugge, non fai il film. Se si costruisce, è come l'amicizia, no? And if it deteriorates, you don't make the movie. If the trust builds like a friendship, right? Adesso invece sta girando Oppenheimer Strategies, la storia di un piccolo imprenditore che stringe amicizia con un politico che diventerà un leader molto influente. È un film però che potrebbe far discutere molto durante la campagna elettorale americana quando uscirà. I don't see how it relates to the US somewhat. We have some meetings in there that Vediamo come può avere a che fare con le elezioni americane. Ci sono degli incontri tra ministri israeliani e ufficiali americani. Ha a che fare con la comunità ebraica a New York, con l'AIPAC, un gruppo potentissimo, con la Knesset, con la politica ad alti livelli nel Medio Oriente. Ma tutto nella prospettiva alla Rosencrantz e Guildenstern di Amleto. And in this case Oppenheimer is Rosencrantz. Okay. In questo caso il mio ruolo è Rosencrantz. È una visione interessante e credo profonda della politica mondiale, ma anche di un uomo. Per quanto possa essere estremo, ci fa sempre entrare in relazione con lui. As extreme as this guy is, I think we can all relate to him. Ed è tutto per questa puntata di Voci in Scena con Richard Gere. L'appuntamento è ancora per domani alla stessa ora.